faccio lì mi anchino. Resto a profilare fermo come un manichino. Se tutto incominciò ma adesso ho i fili alle mani come un burattino. Passo dopo passo torno a casa di bianco sporco e mi chiedo che cosa cerco. Un microfono, un pennello, immaginando di cantare in mezzo a un parco. Alzate queste mani in bianchini, l'Italia un mito di secolo che è la sintesi dei vostri incubi e l'enfasi. Cosa posso fare? Non mi voglio mai pagare per andare a registrare. Oh, metti stereo secolo, non ti stanchi neanche un po', segui adesso il giusto flow. Lo voglio come mestiere perché mi piace. Spogliarmi del camerino con le infermiere del quartiere, ma che sedere, solo piacere. Tipo quando ero fatto di Super Scan con un punk al pronto soccorso. Ti ricordi mamma, ero quasi morto. Dicevo cose sconce alla mia prof di corso. Talmente allucinato l'ho scambiata per un orso. Guardami bene, ma bene bene bene. Quando faccio un esame non so se ti conviene. Mi distraggo spesso e non ti passa. Una volta ho chiesto permesso per andare al cesso. Mi son trovato a fare sesso con una grassa dalla mutandina bassa. Tra-la-la-la-la. Questo lavoro chi ce l'ha? Ma qua c'è solo un grasso con il pass che niente ha. Parla quantità. Metti stereo secolo, non ti stanchi neanche un po', segui adesso il giusto flow. Metti stereo secolo, metti stereo secolo, metti stereo secolo.